Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Puntata numero 25 dal mondo della scuola, ancora ben trovati, Mirko Cavallini in studio e Didaici in regia. Anche oggi spazio all'appuntamento del 10 maggio, sabato, Piazza San Pietro, Roma, nel pomeriggio, tutta la scuola italiana incontra Papa Francesco, iniziativa promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, anche con un apposito sito internet, lachiesaperlascuola.it, con tante notizie, materiali, indicazioni anche su come partecipare, perché le iscrizioni a livello centrale sono aperte fino al 14 aprile, invece a livello locale delle nostre diocesi sono già state chiuse nei giorni scorsi, ma magari c'è ancora qualche possibilità di partecipazione individuale per questo incontro. Il Papa sta incontrando tutti, abbiamo parlato nei giorni scorsi dell'incontro che ha avuto con noi radio e TV locali cattoliche. Adesso tra poche settimane incontra appunto il mondo della scuola nel suo complesso, nell'insieme, come conferma il neo segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino. Sicuramente quello che si sta facendo nella scuola e per la scuola non riesce assolutamente a far raggiungere alla scuola i suoi obiettivi naturali, quello cioè per cui la scuola è fatta, perché la scuola non è fatta per dare risposte, la scuola è fatta per aiutare il giovane ad attrezzarsi criticamente per poter stare in maniera sensata in questo mondo. L'evento del 10 maggio è il Papa Francesco incontra il mondo della scuola. Non è l'evento attraverso il quale la Chiesa porta in piazza gente per difendere la scuola cattolica. Chi ha inteso questo, anche all'interno della Chiesa, ha sbagliato indirizzo. Chi pensa che si va in piazza San Pietro per dire vedete quanti ne siamo, dateci i soldi che ci toccano, ha sbagliato indirizzo. Che i soldi debbano essere dati perché sono previsti e che bisogna ricordare che la scuola pubblica, paritaria, fa risparmiare allo Stato 6 miliardi e mezzo, a fronte dei quali dovrebbe dare 640 milioni quando glieli dà, questo è un fatto, ma non c'entra niente con il 10 maggio, quando si va per essere aiutati e stimolati dal Papa a riscoprire la gioia, ma anche la fatica di educare, a creare, a formare gente criticamente in gamba, gente aperta, gente leale, gente capace di progettare cose nuove di cui questo nostro mondo ha bisogno. Sono molti i motivi di interesse per questo incontro, anche le aspettative, ne stiamo parlando già in altri spazi il lunedì pomeriggio intorno alle 17:10 e lo faremo appunto fino alla prima settimana di maggio. Ma va dato uno sguardo generale alla situazione italiana e su questo ci facciamo aiutare dalla voce di un esperto, lo vediamo spesso collegato negli studi televisivi, in particolare quello di Ballarò su Rai 3, è il presidente della società di ricerca e sondaggi Ipsos, Nando Pagnoncelli. Indubbiamente negli ultimi tempi i giovani hanno migliorato in misura significativa la loro relazione con la famiglia d'origine, da un lato perché sono cambiati in misura davvero ragguardevole i rapporti intrafamiliari, portati più a dialogo, coinvolgimento, rispetto reciproco, dall'altro perché la famiglia svolge un ruolo molto importante di sostegno ai figli. Molti ragazzi sotto i 35 anni sono ancora, vivono ancora nella famiglia d'origine, quelli che escono spesso ricevono un sostegno economico e in servizi da parte della famiglia. Alla luce di questa positività, la cosa, a mio parere, è molto importante che in termini di proiezione futura la famiglia occupa uno spazio molto importante nei progetti dei ragazzi. È vero che la situazione attuale non favorisce i percorsi di vita autonoma dei ragazzi, soprattutto per il tema occupazionale, ma è altrettanto vero che nella loro immaginazione pensano a se stessi nel futuro come membri protagonisti di una famiglia che ha figli, due o più figli addirittura vengono citati nelle loro prefigurazioni future. Ebbene, tutto questo è un elemento estremamente importante che dovrebbe indurre le famiglie spingere i giovani a prendersi la responsabilità e anche un po' di rischio, perché attivino dei processi di vita autonomi, e nello stesso tempo le istituzioni pubbliche ad avviare politiche che favoriscano non soltanto l'occupazione dei giovani, ma le pratiche consegnative e un po' che cosa che consenta la costituzione di nuove famiglie nel nostro paese. E lo ricordo, un paese che sta invecchiando, invecchia profondamente, e invecchiando porta con sé molti rischi, l'idea che non succedano processi di ricambio, di cambiamento, di innovazione, che sono processi generati dai giovani. Non è un caso che nei paesi in via di sviluppo e paesi emergenti siano proprio i giovani i protagonisti di queste fasi cambiamenti. Ebbene, o noi entriamo in questo tipo di prospettiva, cioè di favorire i percorsi di vita autonomi ed individuali dei giovani che possono costituirsi una loro famiglia, o il nostro paese è destinato ad invecchiare veramente. L'autorevole punto di vista di Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, per fotografare questa situazione che tra poco approfondiremo ancora, perché vi proporremo molte voci da diverse parti d'Italia. State con noi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Sola via, sì che vai via, ma che freddo fa, se tu vai via, non vuoi aspettare neanche il tempo utile, perché da me lo so si va soltanto via, via le mani dagli occhi, che senso ha se poi ti tocchi? Pensieri ancora lontani, lontani, lontani, lontani, lontani. Strana magia, in un istante tu vai via, non vuoi leccarmi tutte le ferite. Così che tu vai via, ma da quando è qua, no, non sei più mia, tu sola che hai leccato tutte le ferite, lo sai da me, tu non puoi proprio andare via, via le mani dagli occhi, che senso ha se poi ti tocchi i pensieri ancora. Toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani. toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccale. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Si attendono decine di migliaia di persone il 10 maggio prossimo a Roma per l'incontro di tutta la scuola italiana con Papa Francesco. Una delegazione, immaginiamo nutrita, arriverà anche dall'Arcidiocesi di Milano, che nei giorni scorsi ha già promosso un suo tradizionale appuntamento per il mondo della scuola. Andum al Dom, una passeggiata, andiamo al Duomo, che si è conclusa con la presenza di 30.000 persone e l'intervento del Cardinale Angelo Scola. La prima cosa la dico a tutti gli studenti, cominciando dai più piccolini, a tutti state bene a sentire. Il modo migliore per aiutare la nostra società a superare questa fase difficile è andare a scuola contenti e uscire da scuola ancora più contenti. Va bene? Ricordatevi bene questa cosa, perché la scuola è un'occasione bellissima di educazione attraverso l'amicizia tra di voi, il rapporto con i vostri professori, quello che raccontate a casa in famiglia. Voi vi educate, cioè crescete, e per crescere bisogna incontrare ogni giorno qualcosa di bello che dà tanta gioia, e voi dovete, questa è l'ultima cosa che dico ai piccoli, dovete comunicare questa gioia a tutti gli amici che incontrate anche fuori dalle vostre scuole, all'oratorio, nel quartiere, nel paese, nella città, dovunque siete, perché le cose belle non si possono mai tenere dentro di sé. Escono sempre. Ovviamente andare a scuola contenti, uscire contenti, implica anche un po' di sacrificio. Voi questo lo avete imparato bene, ma niente e nessun uomo al mondo può guadagnare l'esperienza della gioia senza un po' di sacrificio. Pensate a quel che fa la mamma, il papà, il nonno e la nonna in sacrificio, perché vi vogliono bene e si prendono cura di voi. Adesso la seconda brevissima parola è per tutti gli adulti, a cominciare dai genitori, dai nonni e dalle nonne, e è certamente evidente a tutti che la famiglia e la scuola sono due grandi risorse per ogni epoca della storia, e lo sono in modo particolare in questo delicato passaggio al terzo millennio. Però la condizione perché la famiglia e la scuola, attraverso l'educazione di questi nostri stupendi ragazzi, possano incidere, la grande condizione si chiama libertà. C'è uno striscione davanti a me, liberi di educare. Sotto a liberi di educare dovete scrivere un'altra frase: educare alla libertà. Liberi di educare per educare alla libertà. Allora, cosa chiediamo trovandoci qui tutti gli anni in questa bellissima marcia? Noi non chiediamo la luna, noi chiediamo semplicemente di poter educare la libertà, ridando alla famiglia e ai genitori il loro diritto primario di essere responsabili dell'educazione dei loro figli fino alla loro maggiore età. È per questo che abbiamo messo tanti anni per far passare l'idea che le scuole, anche le scuole riferite al cristianesimo, sono scuole pubbliche, perché non c'è nessuna realtà educativa sociale che non sia pubblica. Ci abbiamo impiegato tanto a far passare quest'idea, capite? E l'abbiamo fatta passare solo in parte, perché a me questo aggettivo paritaria che sta accanto al pubblico non mi va bene. È troppo poco questo aggettivo paritaria. È troppo poco. E noi lo sappiamo bene. lo sappiamo bene. Noi chiediamo che finalmente anche nella nostra Italia ci sia una libertà di proposta scolastica, ovviamente una libertà che deve essere garantita e verificata dalle istituzioni responsabili a vari livelli, dalla città alla provincia, alla regione, allo Stato, che, come diciamo sempre, queste realtà governino la scuola, ma non pretendano di gestirla. Lascino alla libera iniziativa delle famiglie e del popolo la scelta. Ora, attenti bene, non ci siamo spaventati quando per lunghi anni abbiamo dovuto insistere per far capire che le nostre scuole sono pubbliche. Così non dobbiamo spaventarci se il cammino sarà lungo, perché anche in Italia ci possa essere una pluralità di modelli educativi che le istituzioni garantiscono fino alla dimensione economica e evidentemente poi verificano e quindi possano governare. Allora dobbiamo realmente testimoniare con la bellezza delle vostre esperienze scolastiche che qui si esprimono che noi non vogliamo togliere nulla alla scuola di Stato, non vogliamo sminuirla in nessun modo. Abbiamo bisogno che le nostre scuole e le nostre università funzionino bene, meglio, che arrivino a livelli più elevati di educazione e di formazione. Non vogliamo togliere nulla, chiediamo solo una libertà totale e intera per provare un altro modello di scuola, il modello di scuola nel quale noi intendiamo offrire a chi vuole con grande libertà una proposta educativa, un criterio per educare, un'ipotesi di vita per educare, che le famiglie sentano in continuità con la loro stessa esperienza. I tempi stanno maturando perché la libertà di educazione diventi effettiva. Per questo però bisogna educare alla libertà, e questo passa attraverso lo studio di tutte le materie, passa attraverso lo stile di relazione tra la famiglia e la scuola, e quindi la famiglia e la scuola diventeranno realmente una risorsa per la nostra società. Come sempre autorevole, la voce del cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, lo conosciamo bene per i suoi circa 9 anni qui da noi a Venezia. Ancora voci tra poco, esperienze e testimonianze in vista dell'incontro del 10 maggio di tutta la scuola italiana con Papa Francesco. Dal mondo della scuola. Ultima tranche di questa puntata dal mondo della scuola, dedicata all'incontro di Papa Francesco con tutta la scuola italiana sabato 10 maggio a Roma. Ci sono 7 parole che sono state messe in evidenza nei materiali preparatori, parole chiave su questo tema, su questo incontro: educazione, insegnanti, generazioni e futuro, umanesimo, autonomia e sussidiarietà, comunità e alleanza educativa. Proprio su quest'ultimo concetto sentiamo Don Filippo Morlacchi, che è dell'ufficio scolastico della Diocesi di Roma. Parlare di alleanza educativa significa ricordare che non è possibile educare da soli, si educa sempre insieme. Educare è un atto relazionale. Nella Bibbia si parla sempre di alleanza. La prima alleanza è quella con Abramo, perché Dio ricorda: non è bene che l'uomo sia solo. Si cresce nelle relazioni. L'alleanza educativa ci ricorda che ogni atto educativo è un atto di condivisione. Ma dirò di più: parlare di alleanza educativa significa che non basta neanche l'alleanza fra educando ed educatore. Ci deve essere una rete di relazioni tra coloro che svolgono l'atto educativo. Non è bene che l'uomo sia solo, guai a chi è solo, dice la Bibbia. E il Coelet aggiunge: una corda a 3 capi non si spezza tanto presto. Questa rete a 3 è la rete che collega il fanciullo, il ragazzo che deve crescere, insieme alla famiglia, insieme con la scuola. In questa triade si crea una vera alleanza educativa. Don Filippo Morlacchi, dell'ufficio scolastico della Diocesi di Roma, sul tema dell'alleanza educativa, ci ha messo in evidenza non solo gli aspetti e riferimenti biblici, ma anche quelli più concreti, i genitori e la scuola. Allora sentiamo un dirigente scolastico, Sergio Cicatelli. Gli insegnanti sono la figura chiave di una scuola. Una scuola funziona se ha dei buoni insegnanti, e se ha dei cattivi insegnanti evidentemente non riesce a raggiungere i suoi risultati. È intorno agli insegnanti quindi che gira la vita della scuola, ed è sulla persona degli insegnanti che si gioca l'efficacia di tutto il sistema scolastico. Gli insegnanti oggi sono in crisi, come è in crisi tutta la scuola, hanno bisogno di ritrovare fiducia in se stessi, hanno bisogno di ricevere fiducia dall'esterno. Se si riesce a realizzare questo processo, probabilmente riusciremo ad avere una scuola migliore. Gli insegnanti sono una figura fondamentalmente educativa, hanno una responsabilità educativa, perché l'educazione è un rapporto tra persone, e gli insegnanti entrano in relazione con decine di persone, i loro alunni, ogni mattina nelle aule. Devono recuperare il senso di questa dimensione educativa, di questa dimensione relazionale, che ovviamente non è soltanto loro, ma che è propria proprio della funzione educativa. La condividono con i genitori e con tutti gli altri attori della comunicazione, dai mass media alle altre persone, ai gruppi dei pari con i quali i ragazzi si incontrano quotidianamente. Ma l'insegnante deve rimanere un punto di riferimento a qualunque età, dai bambini della scuola dell'infanzia fino agli studenti delle scuole superiori, riuscire a trovare delle persone credibili nelle quali identificarsi e alle quali saper chiedere aiuto quando serve. Dal professor Sergio Cicatelli, dirigente scolastico, l'esperienza di 2 genitori, lei è anche insegnante, sono, come sentirete, dalla Sardegna, Carmen e Tonino Cau. Io sono una madre da 27 anni, ho 5 figli, e la più grande ha appunto 27 anni. Il mio lavoro è quello di insegnante, quindi nella vita quotidiana, nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, ecco, cerco di conciliare il ruolo di madre e di insegnante. Effettivamente vedo come siano 2 realtà molto vicine, ma allo stesso tempo molto, molto distanti, nel senso che non sempre c'è sinergia fra le 2 agenzie educative. Cerco di accompagnare in tutto e per tutto i miei figli nel loro percorso scolastico, dall'università sino alla scuola, la piccolina frequenta la scuola primaria. Ascoltiamo molto i nostri figli, dialoghiamo con loro, cerchiamo di cogliere quello che per loro è positivo o negativo. ed eventualmente anche valutare la possibilità, e tante volte è successo, di andare in favore dei nostri figli rispetto a ciò che hanno vissuto a scuola. Essendo, voglio dire, anch'io insegnante, mi rendo conto che ascoltando proprio i miei figli non sempre in loro trovo ragione in ciò che mi dicono. Perché? Perché tocco con mano ogni giorno quanto sia difficile insegnare, ma non soltanto conoscenze per acquisire competenze, ma insegnare ed essere una brava insegnante, non soltanto di saperi, ma insegnante di veramente educativa, di educazione. Allora, in questi anni ho avuto modo di sperimentare quanto possa essere importante la relazione tra famiglia e scuola. Diverse volte ho avuto l'opportunità di potermi confrontare appunto con la scuola attraverso i miei figli, che di tanto in tanto arrivavano a casa con qualche lamentela, con qualcosa nei confronti della scuola che non andava. Per cui io, come genitore, senza svalutare la scuola, ma comunque prestando attenzione anche a quello che i miei figli mi suggerivano, ho cercato di mediare con la scuola. Quindi sono sempre stato presente, e ogni qualvolta mi è stata data l'opportunità sono andato a parlare con gli insegnanti, appunto cercando un dialogo con loro e cercando di stabilire un punto di incontro tra famiglia, scuola e allievi. Noi, come genitori cristiani, pensiamo possa essere fondamentale questo terzo elemento, cioè la Chiesa, che sicuramente può dare un contributo affinché queste due realtà possano essere sempre più vicine tra loro. Oltre ai genitori, questi erano Carmen e Tonino dalla Sardegna. Ovviamente saranno in tanti dirigenti, insegnanti e bambini, alunni, immaginiamo, anche sabato 10 maggio a Roma, Piazza San Pietro, nel pomeriggio. Ricordiamo il sito ufficiale www.lachiesaperlascuola.it. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.